Proseguiamo con un brano di parecchio tempo fa che al quale sono molto affezionato, si chiama Mettimi Giù. Ah, ma allora se lo ricorda anche Paola Gallo. Dov'è Paola Gallo? Non lo... Ah, eccola qua. Potete battere anche le mani, non succede niente. Complimenti a Sergio Caputo, ho grazie. Dovuto fare la rima baciata così, e complimenti anche ai tuoi musicisti, ce li presenti? Sì, abbiamo il grandissimo Roberto Nannetti alla chitarra, yeah. Satiamo Hernandez alle percussioni e tra poco anche ai cori. Thank you, tra poco. Ettore Bonafè alla batteria, Gilson Battista da Silveira alle percussioni. Giulio Sibelli al sax, acquisto di questa sera al basso, suoniamo per la prima volta insieme. Danilo Minotti sta accompagnando, così. Musica dal vivo, allora, la musica di Sergio Caputo a Radio Italia, solo musica italiana. Ti ascoltiamo, vi ascoltiamo.